Per la quarta puntata del nostro programma abbiamo deciso di entrare nel vivo dell'attività ludica nel territorio italiano e così abbiamo colto dalla viva voce di uno degli organizzatori della Fiera Play, che avrà luogo a Modena il 26 e il 27 di marzo, quali sono le prospettive e le aspettative nell'organizzare un evento di questo tipo in Italia. D'altro canto è a questo genere di riflessioni che ci porta quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Non importa dove nasca la cultura e nemmeno l'uso che se ne fa, ma il modo in cui la cultura viene interpretata e riproposta. Da questo punto di vista il mondo del gioco contemporaneo rappresenta una rottura rispetto ai giochi tradizionali, potremmo dire quasi un binario parallelo. Per questo Bim Bum Bale Giù proverà a sdoppiarsi per cogliere anche le istanze di questo mondo, sì diverso ma altrettanto attivo e produttivo, e forse anche di più. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla quarta puntata di Bim Bum Bale Giù su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Quest'oggi parliamo di Play Modena, ma prima di questo vogliamo riprendere un discorso che abbiamo accennato nell'introduzione. È infatti una convinzione comune negli studi antropologici che la cultura, intesa come risposta agli stimoli esterni e la realizzazione materiale effettiva di queste risposte, non vada più indagata come una struttura organica e coerente, con un inizio e una fine. La cultura va intesa per lo più come un filo rosso che unisce tutte le esperienze e le produzioni umane. Per questa ragione è molto difficile afferrarla e per questa ragione si tende al giorno d'oggi a paragonarla a un materiale plastico che si può modificare e plasmare a seconda delle circostanze e delle necessità. Un evento come la Fiera Play di Modena dal 26 al 27 di marzo è uno di quegli scenari ideali in cui è possibile vedere in prima persona e in tempo reale come questo materiale che è la cultura si trasforma e si adatta alle occasioni e alle esigenze. A tal proposito, abbiamo contattato Andrea Ligabue, uno degli organizzatori della fiera, per fargli qualche domanda. Vi daremo più tardi qualche informazione in più su Andrea e il suo lavoro. Adesso vogliamo proporvi il primo spezzone di intervista in cui gli abbiamo chiesto a quale pubblico vuole rivolgersi la Fiera Play, quale pubblico ci si aspetterà per le edizioni di quest'anno e cosa si può aspettare il pubblico da questo evento. Play nasce storicamente come raccogliendo l'eredità di quella che era la Convention Nazionale dei Giocatori e poi Motcon, e quindi diciamo nasce con una struttura, un cuore pulsante fatto da appassionati di giochi provenienti da tutta Italia, e diciamo quindi questo è diciamo il cuore, il motore della manifestazione, quindi sicuramente una parte del pubblico consistente è formata da appassionati, gente che gioca tutto l'anno, membri di associazione provenienti da tutta Italia. E l'ambiente fieristico diciamo ha consentito di allargare questo target e fare un'offerta di opportunità di gioco molto interessante anche per i curiosi, per le famiglie e per i bambini. Quindi diciamo il pubblico di Play è un pubblico misto, cioè ci sono i super esperti, super appassionati di giochi, ma c'è anche la famiglia, il gruppo di curiosi che viene a provare per conoscere questo mondo. Anzi, spesso diciamo quello che è molto bello di questa manifestazione è che proprio gli esperti organizzano gli eventi e quindi sono loro che fanno da guida, da ciceroni alle persone che non conoscono questo mondo, quindi diciamo li introducono in questo mondo. Il pubblico cosa si aspetta da Play? Diciamo l'impronta principale che ha di Play, che la contraddistingue da tutte le altre fiere anche diciamo che parlano di giochi, è l'idea del far partecipare il pubblico in prima persona, cioè chi entra a Play non deve essere spettatore ma deve essere giocatore, cioè il modo migliore per avvicinarsi ai giochi è giocarli, quindi anche noi come organizzazione abbiamo richiesto a tutte le associazioni, a tutti gli espositori presenti a Play di curare questo aspetto, quindi di fare proposte che siano interattive, cioè il pubblico deve non girare e guardare, ma girare e avere la possibilità di provare, di giocare, di partecipare in prima persona. Bim Bum Bale Giù! Siamo tornati su Bim Bum Bale Giù. Io sono Francesco, siamo su Radio 110, stiamo parlando di Play Modena e ascoltiamo la voce di Andrea Ligabue. Andrea non è solo uno degli organizzatori di questo evento, ma è anche un vero e proprio ludologo. Questo è il nome del suo blog, ludologo.wordpress.com, in cui parla di giochi e soprattutto di giochi in rapporto alle novità del mercato. Andrea è un professionista nel ramo ludico. Oltre a essere autore sempre sul tema del gioco per numerose riviste online e non, è collaudatore di giochi per le maggiori case italiane, è promotore di eventi a stampo ludico oltre a quello di cui vogliamo parlarvi oggi, è l'unico membro italiano dell'International Gamers Award e molto altro ancora. Meglio di lui non potevamo trovare per farci raccontare di Play Modena. In questo secondo spezzone di intervista Andrea ci parla della specificità di Play rispetto a un evento affermato importante come Lucca. Lucca è un evento anche a carattere commerciale in cui il fulcro sono, diciamo, la fiera classica, quindi uno guarda, va e gira, e anche, diciamo, gli spazi sono strutturati in questa maniera. Play invece, che è il secondo evento più importante in Italia nel mondo del gioco, anche come rilevanza internazionale, presenza di editori così, ha invece proprio il giocatore come centro dell'attenzione, cioè tutta la fiera è costruita avendo in mente che la gente deve poter venire a giocare, quindi un esempio banale, non ci sono spazi compressi, ma tutti gli espositori hanno a disposizione tanti tavoli per poter allestire i loro giochi e fare giocare la gente. Ci sono tantissime aree di Play che sono dedicate alle associazioni di giocatori, quindi i giocatori possono, diciamo, le associazioni possono venire, mostrare i loro giochi, far giocare la gente ai loro giochi, farsi conoscere. Questo aspetto della fiera di Play è, diciamo, unico e lo caratterizza. Cioè, per darti un'idea, ci sono più di 70 associazioni provenienti da tutta Italia che vengono a portare eventi, tornei, far conoscere i loro giochi a Play. Questo, diciamo, è una risorsa molto molto grande che non è presente in altri eventi fieristici. Ci sono tantissime realtà in Italia di gruppi di giocatori che, diciamo, fanno delle bellissime attività, magari alcuni prediligendo certi tipi di giochi, altre certe altre tipologie. E Play vuole essere la loro fiera, cioè il posto in cui loro possono venire, farsi conoscere, far conoscere i loro giochi, ma i loro giochi che non è detto che loro producono, anzi spesso, diciamo, i giochi sono prodotti da degli editori affermati o dalle cose, però ogni associazione è, diciamo, un gruppo di appassionati di un certo gioco. Per dire, abbiamo le finali nazionali del torneo di Risica Squadra, abbiamo le finali nazionali di vari giochi da tavolo portati avanti da una lega di giocatori che si chiama la Board Game League. Insomma, abbiamo eventi di questo tipo che sono organizzati dalle associazioni. È chiaro che un evento fieristico tradizionale come potrebbe essere Lucca, in cui gli spazi hanno dei costi proibitivi e generalmente non sono dati gratuitamente alle associazioni, non possono permettere una cosa del genere. A Play, ad esempio, tutte le associazioni hanno spazi gratuitamente. Ovviamente il costo, quello che l'organizzazione chiede è che devono essere attività rivolte al pubblico, in cui sì, il pubblico può partecipare. Bim bum bale giù! Questo è Bim bum bale giù su Radio 110. In questa quarta puntata vi proponiamo frammenti dell'intervista ad Andrea Ligabue, ludologo e membro dello staff organizzativo dell'evento. Andrea è un membro dello storico gruppo 3M, i modellisti militari modenesi, attivi dal 1980, e un collaboratore del gruppo La Tana del Goblin, un'associazione che può vantare quasi 2.000 associati in Italia e quasi 10.000 iscritti alla comunità virtuale. Continuiamo ad ascoltare l'intervista ad Andrea Ligabue. In questo terzo frammento gli abbiamo chiesto quali sono i giochi che vanno per la maggiore in questo momento. Allora, parlando di giochi, ti dico, è molto fare dei titoli, adesso qualche nome te lo farò. Diciamo che ci sono a Play, sono rappresentate tantissime tipologie di gioco, cioè abbiamo i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, i giochi tridimensionale, il wargame storico, cioè i giochi da guerra con miniature, ci sono i giochi di ruolo dal vivo, ci sono varie altre tipologie di gioco come, diciamo, è uno degli eventi in Italia più grande per le piste di digital slot. Quindi, diciamo, qual è il gioco in specifico che va dalla maggiore dipende molto dalle tipologie. Parlando nel mondo dei giochi da tavolo, diciamo, ci sono alcuni titoli che si stanno affermando, come potrebbero essere Colonie di Catan, Ticket to Ride, Carcassonne, che sono, diciamo, giochi che sono rivolti a un target, lo stesso Risico, che continua, diciamo, avere un gruppo folto di appassionati, che sono giochi abbastanza semplici, rivolti, adatti a tutti. Ma però, diciamo, quello che è bello di un evento come Play è che c'è anche la possibilità di ritrovarsi per gli appassionati di giochi meno diffusi, magari ce ne sono 20-25 in tutta Italia che sono veramente appassionati in un certo gioco, a Play hanno il loro torneo, il loro momento di riferimento, il loro angolo in cui poter fare il loro gioco. Se si va nel mondo del tridimensionale, il gioco che spopola è il Warhammer Fantasy, che è il gioco di miniature fatto dalla Games Workshop, sì, di battaglie tra eserciti fantasy. Nei giochi di ruolo ancora è molto seguito Dungeons and Dragons, che è giunto, sì, alla sua quarta edizione ed è, diciamo, il capostipite dei giochi di ruolo. Nei giochi di carte collezionabili abbiamo Magic, The Gathering, abbiamo Yu-Gi-Oh! Che è rivolto a un target più piccolino, quindi diciamo abbiamo ditte grandi come la Lego e la Hasbro che presentano i loro prodotti. Ad esempio l'anno scorso sono usciti Lego Games, che sono dei giochi da tavolo fatti coi Lego, e hanno avuto un successo enorme in Italia su un target, diciamo, di bimbi della scuola primaria. Il boom che sta avvenendo nel mondo sono quelli che vengono chiamati giochi alla tedesca, che sono i cosiddetti family games, cioè quei giochi che hanno di solito una durata che va dai 45 minuti alle 2 ore al massimo, che possono essere proposti a una famiglia o anche a un gruppo di amici e possono essere quindi giocate in un tempo inferiore alle 2 ore. E questo tipo di prodotto, che per darti un'idea della dimensione del mercato, ogni anno ne vengono immessi sul mercato tra i 400 e gli 800 nuovi giochi, è la spinta che sta dando vita di nuovo al mercato e al mondo del gioco. Bim Bum Bale Giù! Bim Bum Bale Giù, Radio 110, quarta puntata. Parliamo con Andrea Ligabue della Fiera Play Modena. Come avrete sicuramente notato, la nostra trasmissione sta cambiando un po' pelle. Sono passate poche puntate e già il programma si trasforma, si adegua anche agli argomenti. Vogliamo che il nostro programma richiami la metafora della cultura come materiale plastico e malleabile e sia capace di viaggiare su diverse lunghezze d'onde e su diversi registri. Proprio come la cultura, di volta in volta, la nostra trasmissione cercherà, nei limiti delle nostre possibilità, di adattarsi alla circostanza. Per esempio, in questa puntata volevamo dare centralità alla voce di Andrea, che è un esperto di giochi del giorno d'oggi e ha un'idea molto precisa di quello che accade. Ascoltiamo per esempio cosa ci dice riguardo al gioco tradizionale e sull'esempio del poker. Scacchi, dama, tutte queste cose qua. Allora, loro hanno le loro associazioni, le loro federazioni con tantissimi appassionati e continuano ad essere vivi. Ad esempio a Modena abbiamo uno dei club italiani di scacchi, il club 64 in assoluto, più attivi e vivi sui giovani, fanno tantissime attività nelle scuole, sono un gruppo foltissimo. Stessa cosa il Gola Dama, diciamo che purtroppo, tranne che in eventi come Play, che da questo aspetto è unico, non c'è tanta condivisione e vita assieme di queste tipologie di gioco, perché hanno spesso gruppi, target, tradizioni diverse, sì, mentre in realtà proprio la volontà nostra di organizzatore di Play è proprio cercare di far conoscere l'offerta ludica, cioè quello che è gioco, sì, a 360 gradi. L'unica scelta che abbiamo fatto noi un po' radicale, che però diciamo sicuramente per certi aspetti pagheremo, ma per altri ci premia, è il tener fuori tutto quello che è legato al mondo del gioco d'azzardo. Cioè noi non abbiamo, diciamo, eventi di poker, anche, sì, se diciamo negli ultimi anni il poker si sta sempre più configurando non tanto come gioco d'azzardo ma come proprio quasi attività sportiva, sì, di un certo tipo. Però diciamo, visto che ci sono ancora forti le malinterpretazioni di queste cose, al momento, finché non è chiaro che come è evoluto il poker e queste tipologie di giochi, noi li abbiamo tenuti fuori. Sì. Perché noi, diciamo, la nostra spinta è la cultura del gioco intelligente, in cui quindi il gioco giocato quasi fine a se stesso, comunque per vincere, per giocare, però non ci sono un fine economico, non c'è, sì, il gioco d'azzardo, non c'è la lotteria. Cioè il gioco comunque sviluppa doti di strategia e tattica che altre attività fanno fatica a sviluppare, sì, quindi diciamo il giocare abitualmente, giocare con i propri figli, con i propri amici, aiuta a, diciamo, sì, aguzza l'ingegno, le doti tattico-strategiche e ragionamento. Sì. Bim Bum Bale Giù! Siamo ritornati in studio con Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su Radio 110. Parliamo della Fiera Play di Modena con Andrea Ligabue. Abbiamo parlato sinora degli obiettivi che si propone la Fiera, cosa la rende un evento particolare in Italia e qual è la concezione del gioco che sta alla base delle scelte degli organizzatori. Abbiamo provato a chiedere ad Andrea qual è il futuro in Italia dei giochi tradizionali provenienti da altre culture. Un argomento che ci incuriosisce e ci interessa molto. Andrea ci ha dato una risposta molto concreta e molto interessante e sicuramente non banale. diciamo, ti rigiro la cosa, ti dico, se tu guardi come percorso culturale di riprendere quello che era i giochi del passato, diciamo c'è una diffusione ma non così tante, così forte, però il mercato del gioco adesso è davvero internazionale, cioè per dire uno dei giochi che ha fatto successo quest'anno è un gioco fatto da un portoghese pubblicato da un italiano, autori italiani vengono pubblicati in America e in Germania, ci sono giochi che vengono dalla Cina, dall'Australia, cioè quindi è chiaramente un autore quando scrive un prodotto si porta dietro la sua cultura, quindi gli autori francesi hanno un loro stile, gli autori americani tendono ad avere un loro stile, gli autori tedeschi tendono ad avere un loro stile, gli italiani un loro stile, quindi diciamo, se tu mi dici la fiera e il gioco moderno è interculturale, ti dico di sì, perché il mercato del gioco sta diventando davvero interculturale, per dire, negli ultimi 2 o 3 anni ad esempio hanno avuto molto successo tutta una serie di movimenti di giocatori e quindi di case editrici e autori dell'est, Cecoslovacchia, Polonia, che fino a qualche anno fa non c'erano, e quindi in questo senso qua il gioco moderno è davvero internazionale, sì. E ogni autore, ogni casa editrice ovviamente porta dentro quella che è la sua cultura, sì, e la sua esperienza. Se invece tu mi dici c'è una ricerca di un percorso che va a ripercorrere quali sono i giochi tradizionali, non è diciamo, non è così evidente. Da questo punto di vista qua è molto, diciamo, più efficace, più puntuale l'azione che fanno quelli dell'Accademia del Gioco Dimenticato, comunque diciamo tutto il movimento di giochi che c'è dietro a un altro evento ludico che forse tu conosci, che è il Toccati di Verona. Sì. Esatto, che invece ha più questo aspetto antropologico, sociologico così. Interessante invece quello che c'è di moderno, ad esempio l'Università di Modena ha un gruppo molto attivo che studia gli effetti sociologici dei videogames e diciamo delle nuove realtà virtuali tipo Facebook, Second Life, così. Sì. E anche quest'anno loro faranno ad esempio un convegno molto interessante sul come il gioco può essere strumento per veicolare informazioni giornalistiche e di attualità. Ah. Fanno un bar camp universitario organizzato da Modena, Siena e Bologna proprio su queste cose. L'anno scorso avevano fatto un seminario su come gioco e architettura potevano essere collegate, quindi diciamo ci sono a play anche momenti, diciamo, culturali profondi. Sì, c'è un accademici. Convegno alla domenica, sì, accademici, c'è un convegno alla domenica in cui si parla di come la cultura influenza il gioco. L'anno scorso era stato fatto come il gioco influenza la cultura, e come il gioco entra nella cultura, quest'anno invece come la cultura entra nel gioco, quindi cioè ci sono anche, diciamo, momenti accademici all'interno della fiera. Ho capito. Play. Bim bum bale giù! Arrivati al momento finale di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Il gioco in Italia è una realtà ricca di proposte e di opportunità, però nascoste. Come sconosciuti al grande pubblico sono i titoli che i giorni nostri vanno per la maggiore. Per questo eventi come Play vogliono mettere al centro della manifestazione i giocatori, per dare loro la possibilità di fare esperienza della novità. Il mondo dei giochi è grande, abbraccia editori e autori di tutto il mondo, i quali si scambiano idee, progetti, collaborazione, creano prodotti veramente interculturali, anche se ci è mancato il tempo per capire come questa interculturalità si realizzi poi di fatto. Nella prossima puntata continueremo a parlare di Play e di giochi dal mondo. Ringraziamo Carlo in regia e Andrea Ligabue per la gentile collaborazione. Vi ricordiamo i contatti www.110.unito.it e cosigiocalmondo.blogspot.com per riascoltare i nostri podcast e per contattarci per spunti, domande o proposte. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Bale Giù è per mercoledì prossimo, sempre alle 20 su Radio 110, la web radio dell'Università degli Studi di Torino. Buonasera. Avete ascoltato? Bim bum bale giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo. Yeah.